briciola. Ma briciola, su che andiamo, su, su, su. Rigido, smontato hai, carissimo. Dove è briciolina? Sì, ieri alle 4, fino a oggi. Gaba, gaba. Emanuele? Sei a posto, sì. Tutto a posto e da mettere a posto. Sì, va bene, è importante che si rimette a posto. E ieri non ti ho sentito, Catta. Hai detto lì su Travaglielli. Ho la testa sciolta, sciolta ce l'ho la testa. La testa lì, proprio sciolta. Vai a recusarti, vai. Ehi, via, per carità. Quindi oggi sei di riposo oppure stasera riprendi? No, solo adesso devono mandare i servizi. Manderanno a mattinata i servizi. Poi non so se sono di riposo, adesso se non perdo una mazza con i servizi. E certo che è pesante, eh. È pesante per le ore, se la metà di 8 ore su è una passeggiata a te. È un casino che ci butta da una parte all'altra. E infatti è paghissimo a chi andi lontano a farsi un video e da voi devi rimanere tutti gli studi. Purtroppo. E beh, tutto sta a posto per la TV, non disturbi più. Sì, mi hai tagliato il filo di antenna, io non credo che non disturbi più. Io me la dicevo, sono good, hai donna. Ma questa è la parte sana di te che ti sta parlando, e tu faresti bene da solo. Aspetta che ti telefoneggio, no? Fatta lì, ma la modulazione mia ammazza, Ma non è, tu stavi chiamando. Non è una... Ehi, ho detto, la modulazione mia ammazza, No, giusta, va bene. Ehi, ok, dai, va bene, dai, ci sentiamo più tardi in caso, se siamo di riposo oggi, ci sentiamo, se no, alla prossima, va bene, dai, ciao Natali, buona giornata. Ciao Manuele, alla prossima. C'è qualcuno qua? CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? CQ 10? Ciao Natalino, buongiorno. Ciao Giù, buongiorno, ben sentito. Ok, mi stavo preparando per uscire. Adesso vediamo. E invece io sto rientrando. Ho capito. Va bene, dai. Già va bene, non c'è problema. Cappa, allora buona uscita, dai, buon tutto, alle prossime. Sì, fra un po', fra 5 minuti magari. Mi sto preparando, capito? Come c'è questo microfono, Natalino? Di lusso. Ok, sempre buono, no? Ehi, io non grido, se non è buono visto. Appunto, va bene, con 5 watt, sì, 5, meno di 5, meno di 5 watt. 5-9. Ok, va bene, dai. Poco fa ho chiamato, verso le 10:15, non c'era nessuno, ho chiamato anche Luca, ma no, non c'era, non ha risposto. Evidentemente non c'è, anch'io ero impegnato, sto rientrando giù. Stavo facendo una commissione, quindi ero fuori. Sì, ok. Va bene, dai. Stai arrivando Santiago 8, provo a mettere la portante. Ehi, con 2 watt, con quell'apparecchio sono che conosci tu. Sì, 8:30, dai. Santiago 8:30 a lancette, questa è a lancette. Allora chi c'è più giusto? Beh, senza dubbio, non ci sono dubbi. Andrà bene, comunque, tu mettendo bene lo stesso, con meno di 5 watt. Io non credo che ti intendo bene. Non ce n'è bisogno di nessuna potenza, sono con 2 watt, con la potenza minima proprio. Capito? e quindi per fare un questo locale va più che bene. Eh beh, certo che sì, ma io l'ho sempre detto, ma la gente tante volte ha la mania della potenza, a me non me ne è mai abbastanza malugavo della potenza, figurati, quando mi sentono mi va bene così. E infatti, io per esempio col 3009 più di 4 watt non potevo abbassarlo, perché usciva solo così, non poteva regolare la potenza, invece questo esce con 2. Ok. Ma a me questa cosa ti dico, quando mi sento lo Santiago 5 va bene, non mi tagli sapere tanto, che se ne frega. E altro che 5, sì, 9, sì. L'importante è la radio, non il segnale. Quando la radio è 5 tu sei puro e sano. E appunto, perciò va bene così. Ok, ok, Natalia. Luca, ci sei? E sto parlando anche sottovoce, Natale. No, oh, ma il microfono, quello lì è spettacolare. Era voce tua giù. Eh beh, certo che sì. Quello che conta è lo grido, un microfono del genere. E infatti, ce l'ho anche io qua. L'apparato non ho, ma il microfono, quello lì, ce l'ho anch'io. C'ho anche il Turner più 3, c'ho la V508, e questo qui è l'MB più 4 sempre. Wow, ma quanto gli hai messo? 1. Ok, sì, beh certo, no, io anch'io ce l'ho il Turner più 3, ma purtroppo mi era caduto e non funziona più. Forse si è rotta la capsula o qualche componente, non lo so. Ce l'ho sempre, ma non funziona, per cui l'ho messo da parte, ho conservato e basta. Io ho capito, e lo stesso mi, io ce li ho lì buttati, ma... Se va aggiungere il là. C'ho quello piccolino, il baracchino, un 23 canali, c'ho di quelli vecchi, e boh, non va già. Basta uno con Natalia, non c'è bisogno di averne tante, basta uno per fare quattro chiacchiere in questa frequenza, basta solamente uno. Bello Mia Graziano mi, buongiorno! Buongiorno, saluti circolari a tutta la ruota, al cerchione! Mi continuate che faccio senso che mi sto ritirando la spina a polvere, che stavo cambiando il sacchetto. Adesso devo passare la scopa, me ne è sceso un po' di furigine. A dopo, che vi ascolto. Eia, faccia pure, faccia come che sia in casa sua, signor Graziano. Ciao Graziano, ogni tanto ti affaccio, ti fai sentire, andare così. Ogni tanto che mi faccio sentire, quando mi sento un po' meglio, va? Sì, vabbè, da dopo rientro, che adesso finisco qui, se no se viene mia moglie mi picchia. E fa bene se ti picchia, che ancora non hai passato la scopa, e quindi mi raccapo, ricomodo. No, sto scherzando, grazie, ci mancherebbe altro. Va bene così, dai, va bene, va bene. 9 più 15 mi sta arrivando, comunque, grazie. Allora, sono i baracchini. Esatto, i rumi. Buongiorno. Buongiorno a Paolo, spegnete i baracchini e accendete gli HF, forza. Dai, sto sembrando con la roba. A dopo, dai, che c'ho un po' di pomelli da mettere. Ciao. Ciao, ciao, metti i pomelli, tu comunque non ci sentiamo perché HF non ne ho. Ti devi arrangiare. Ciao, ciao a tutti, ciao, sono qua in ascolto. Eia, buon ascolto, avanti giù. Ok, ciao, ciao Lu. Sempre impacchettendo, sì, Lu, fai bene, impacchetta, impacchetta, che così va bene. No, sto pulendo dei pomelli con gli ultrasuoni, stavo pulendo microfono e quant'altro. Ho capito, già va bene. anch'io fra un po' devo uscire, per cui va bene così. Infatti mi ho sentito natalino, sto scambiando due chiacchiere con lui, però fra un po' esco, dai. Anda bene, ti piace sempre Chico, Luca. Bello, bello. Meno di 5 passi, meno, esattamente 4 saranno, 4, forse 3, forse anche 3 e mezzo. Lusso. Ok, vabbè, dai. Vai Natali. Quello lì era il mio, quel baracchino, lo sai tu Giulio. No, non è dal tuo questo, no. Non è dal tuo. E cosa ci vuoi scommettere? Se tu lo apri ci sono le iniziali FA. Non ti preoccupare, quello lì era il mio. So anche chi te l'ha dato a te. E chi me l'ha dato? Uno con la F te l'ha dato. Sì, ma questo qui era di Claudio, era prima, che l'ha dato a Franco e poi l'aveva dato a me. Dunque non può essere tuo. Sto dicendo che quel baracchino a me chi te l'ha dato mi ha detto che è quello che io avevo dato a lui, capito? Ecco perché ti sto dicendo che è il mio, che era il mio quello lì. Poi io lo so subito se era il mio, basta aprirlo e vedo quelle iniziali lì e sono sicuro che è il mio, perché a me chi me lo manutentava era quella persona lì. Allora dille al signor F gli è un bel paolaggio, perché questo qui era di Claudio, che l'ha dato a lui e poi lui l'ha dato a me. Dagli la figli, che non ne dica di cretinate. Natali, questo come sta uscendo? Allora, bene. Il microfono normale, dai, l'ho appena assemblato, ho messo le spugne nuove anche. Dai, ci sentiamo dopo che finisco di montare i pomelli. Va bene, Mela. Sarà pure un fauraggio, allora è fauraggio. Io uno gliel'ho dato a lui e lui ha detto che l'ha dato a te. Così mi ha detto e così ti sto dicendo. E allora prova a domandare a Claudio, vedi che me l'ha dato a Edo. Prova a chiedere a Claudio che me l'ha dato a Edo, cosa mi sta dicendo. Dai a PD, che non ha racconto di bugie, che è meglio. Questo prima era di Claudio, al 100%, e l'ha dato a lui, l'ha dato, e poi lui l'ha dato a me. Io so che, cioè a me lui ha detto che è quello che gli avevo dato io. Un 4 è. Sì, quello, però non è quello evidentemente, perché questo qui a lui direttamente gliel'ha dato Claudio, non ve l'ha dato tu, ne l'avrai dato un altro, questo d'accordo, non ci sono dubbi, io questo non lo metto in dubbio, però non è questo, sta tranquillo, e se lo chiedi a Claudio che ti dice la verità. Ma io uno gliel'ho dato, di questo sono sicuro. Poi magari, non lo so, è stato Claudio che gliel'ha dato a te e lui l'ha dato a lui e ha confuso. Cosa vuoi ti dica? Io gioco che ne ha già ad uno. Ed Edo mi ha detto che l'ha dato a te. E ti ha raccontato una balla, perché questo qui, te lo sto dicendo, ti ripeto, questo qui era di Claudio, non era tuo, era di Claudio, che l'ha dato a lui, e te lo posso assicurare al 100%, ma che ne abbiamo parlato tante volte con Claudio, anche di persona, per cui no, noi come ti risendiendo, dalla figli. Ehi, ok, va bene. No, non c'è problema. Capito? Si balla a Madito, balla da Giudito. Io quello che mi hanno detto ti ho detto. Poi, se non corrisponde a verità, la colpa non è mia. Perché io uno a lui gliel'ho dato. Sì, ma io non sto mettendo in dubbio le tue parole. Ti sto semplicemente dicendo che non è questo. Tu tu gliel'avrai dato a lui e sono d'accordo con te. Se tu mi dici che gliel'hai dato, io ci credo. Però non è questo, è quello che voglio chiarire, tutto lì. Se lo ripeto ancora una volta, basta domandare a Claudio, che avrà dato a Edu. Non so cosa dire. Vabbè, io mi assento giù. Ci sentiamo alle prossime, allora, tanto devi uscire tu, quindi io devo fare un impegno qua. Ok, d'accordo, ci sentiamo allora, Natali. Alle prossime, dai. Grazie per la chiacchieratina. Ciao Lu, ci sentiamo, ciao. Ti ho salutato, lo Natali l'ho chiuso, stava facendo cosa, deve fare cosa. Ah, perché avevo spento un attimo che ho dovuto girare la radio per montargli la maniglia. Ho capito. Vabbè, dai, anch'io fra un po' esco, dai. Oppure me ne salgo su e mi yucco qualche attrezzo. Ogni tanto ti mando qualche video di quegli attrezzi fai da te. Però io è che non c'è il posto dove tenerli, t'ha già detto. C'ho segannastro circolare, banco, tutto in soffitta e all'occorrenza si porta giù. Certo che sì, d'altronde. Anch'io sono in attesa, mi porto via tutto da qui, me lo porto in magazzino, me lo porto, così almeno posso fare anche quello che mi pare mi piace. Ma comunque al momento non è possibile. Insomma, hai portato tutto a casa, adesso riporti tutto là. Alcune cose ho portato, non è che ho portato tutto a casa, tutto a casa con gli robboni. Alcune cose, piccole apparecchiature che funzionano a 220-230 oggi, per la verità, oggi è 230, non più 220. Ma me le riporto là, il laboratorio è là, non è qua. È perché li porti là, se là non ci sei. Non ci sono, ma basta che ci vada io, dai, e ci sono, no? Non ti sembra? Ma se non ci andrai più come prima. A meno che non fai gatto il travaglio sul toio. No, la carità. Non è che fosse volte prima, ci mancherebbe altro. E vado per passare un'ora così, tanto per distrarmi, oppure per giocare, chiamala così, dai, per giocare un pochino. Allora sì. No, io già non ho più voglia manco di giocare. Se no già ne ho il posto giù in garage a giocare, ma è ganna ganna. Tu ora bala meccanica mi dallo, ma so cos'è per Bonelli da casa a fare il naggioso. D'altronde quando uno ha tempo, quando uno è in pensione, che va a tempo, come te noi, che cosa vuoi fare? In qualche maniera il tempo lo deve passare, no? Io ho anche quell'alternativa che posso andare anche in magazzino e m'attaccavo un'idea e vado e me la faccio lì per dire, no? Magari da voi dirà tutto quello che ho fatto, però è il discorso di passare un'ora così in santa pace, tranquillo, anche perché non riesco a staccarmi dal vizio di aver lavorato 60 anni più. Ecco qual è il discorso, grazie. Lo so, ma io non ho manco più gana di buoni miei, infatti ciao, appa. Ma se ti vuoi una cosa, qualche cosa, già la faccio, se la devo aggiustare, però non con quella voglia di prima, perché quando è che no, quando non stai bene, lavori male e vai a Maragana, compreso, è quello. Questo sì, se uno sta male non è che si deve mettere a lavorare, no? Perché anche se fatichi è sempre un piccolo sacrificio, no? Uno se lo fa perché sta bene, perché magari si annoia in qualche maniera e non bastano fare due passi solamente, non è che poi va sempre le stesse cose, no? Di tanto in tanto esci, vai, trovi un amico, vai al bar, ti prendo un caffè, una bassa e così via. Oppure vai in magazzino e hai quattro pezzi di legno e ti diverti a pasticciare. Da poi magari facci tutto e ti muovi tutto al fuoco, non è che te lo porti a casa, no? Non è che devi battere un giocattolo, no? Quello sì. E a papà non c'è strumento, non attaccato allo televisore. Prima mi hanno fatto scendere i piatti, poi mi hanno pulito la stufa, poi mi hanno chiamato lo sacchetto dell'aspirapolvere che era pieno, tanto voleva fare. Piano piano, con un tubo dello scigliere in un altro, ma mi hanno montato in terra e cucina, che è pulito. Allora, mi è rimasto la città, mi sono piatti, si sono giccati e buh. E niente, poi quando viene mia moglie metto il brodo di pollo, che è veloce e fosso. Ma che oggi è Santa Rita, è andata a Santa Rita, capito? E vabbè, per non rimanere sempre sotto a guardarmi questo televisore, mi sto facendo una cultura su YouTube dei film di guerra, però i più parlano tutti russo, polacco, tedesco, vabbè, molti hanno sottotitoli, molti no, ma un poco gliela ferro, da. E anche in italiano ce ne sono film. Ieri me l'ho visto uno sardo, le sardi che erano andate in Russia in guerra, cazzo, se ti vedi l'hanno tutti molti gli sardi, in Russia e sardi, e gli altri che sono rimasti, meno male li hanno fatti prigionieri. E uno dice, a noi lo Stato ci cerca solo per andare in guerra, siamo i morti di fame del paese, il paese non ha mai cercato nessuno, un paese quasi, mi pare si chiama, un momento che hanno mai detto un nome strano, così, mai inteso laggiù. E c'erano vari attori di bravi, mi sardi anche. Anche continentali, però facevano la parte del sardo, anche parlato il sardo, era bello. Sì, già lo so, sì, grazie. Su YouTube ce ne sono tanti di film, ma io preferisco sempre i film western, e quando guardo su YouTube cerco i film western, ma non guardo solo quello, guardo tante altre cose, chiaramente, anche le notizie del giorno, no? Non c'è problema, per cui mi tengo anche aggiornato, no? Però se voglio vedere il film, immagino, io lo smart del televisore grande, che lì posso vedere anche film tipo YouTube, se sono come vedere YouTube, lo posso vedere tramite internet, lo posso vedere sul televisore grande da 55 pollici, sì, che si può immaginare, non è un problema visto. Va bene così, grazie, va bene. Io poi ripeto, a me mi piacciono bene i film western, che ci sono tutti i giorni, sul canale 24 la sera tu accendi e ci sono sempre, tutte le sere anche due o tre film western, e a me piacciono tanto quei film lì, perché sono rilassanti, capito, non devi pensare a niente, devi vivere a bailar solo che impara e basta. Anche io già me li guardo quelli, e anche al canale 24 su Rai Movie, a Movie, li danno, me li guardo, anche io li guardo, anche su YouTube me li guardo, e la voglia, vabbè da film, ma poi ci sto guardando mangiando, dandomi il beso, metto direttamente lì, mi guardo le notizie, e poi mi metto un paio di film e tutti romanzano. Sì, poco fa l'ho spento, ma stavo guardando un altro film, ma due teci che mi potete di cosa, ma come muovo, se no no che mi dice di bibilitri la luce, a prendere un televisore. Comunque già ci sono dei film, no, io ho Sky e anche la linea fissa, cioè di Sky, internet. E più di tutto, un sacco di canali, e questo prende il televisore che ho io, adesso non ricordo quanti, ma un bel. Vabbè, ma io mi guardo sempre questi, no? Se non so chi va a bussolare, ui. Appunto, che non è un problema quello, già te ne di cosa per cercare di svagarsi. Andava, solo che se da voi anche un film visto 2 volte lo guardo di nuovo, perché mi piace sempre, anche se poi l'ho visto magari lo so un mese prima, lo riguardo di nuovo perché mi piacciono sempre tutti i film western mi piacciono, a parte il fatto che io ho anche i CD e ho tutta la collezione dei film western che ha girato John Wayne, tanto per incominciare, sicché volendo metto il DVD e posso avere una giovane 50, 53 o una cosa del genere, film tutti di western di girati da John Wayne. Dico una cosa, grazie. Tu mi stai arrivando 9:15, una radio bellissima, e come ti dico quando vendi a te, Chivi, a casa tua, dimmi di tutto, sia per la radio che per il segnale. Vai, grazie. E poi mi dici cosa stai usando, se stai usando quello uguale al mio. Sì, 9:15, picchi positivi a 9:20. Però io ho la potenza regolata qua, io me l'ho regolata così, capì? Se voglio la posso mangiare, ma la cucina andrà bene, a voglia, capì? Sto usando io la radio CT3, cosa si chiama, CTR, e l'ultimo l'avevo preso nuovo, questo l'avevo pagato 2,50, nuovo. Ho capito, sì, CRT si dice, dai. CRT 7009 stai usando, ho capito, no, esce molto bene, va benissimo, una bella radio chiara, pulita, va bene, no, anche io sto usando 4 watt, anche di meno, leggermente di meno di 4 watt, per cui tu adesso magari stai usando altrettanto così più o meno, perché il segnale si equivalgo, arrivi 9:15 tu, 9:15 io con picchia 9:20, per cui siamo lì, la potenza è quella più o meno. Sì, ma l'ho sempre lasciato lì, l'avevo regolato con Gio Maria, se volete lo metto, ma ora me la puttina esce abbastanza bene così. Poi questo è tutto digitale, c'ha i tastini, c'ha tutto, mi segna. Ehi, reagio buro, sì, purtroppo sì, grazie, no, non c'è problema, è uguale, praticamente è uguale, no? Alle stesse, magari diversa marca, cioè la marca è sempre quella, però diverso numero, dai, diciamo, però il funzionamento è sempre quello, uguale, ce ne sono 15 o addirittura 18 che hanno tutti lo stesso sistema di funzionamento, uguale, identico, però magari è diverso come mobiletto, dai, diciamo, come marca, però il modulo interno è sempre quello, non cambia niente, capito? Per cui va bene così. Magari come estetica, questo c'ha il display rettangolare, largo, grande quasi quanto la radio, là. E poi c'ha sotto una fila di tassini, e 3 pomelli, 4 pomelli, c'ha altri 2 tassini là sopra, e fino a di cosa, solo che io non ne vorrei, non mi pongo, arriva a mangiare così, cosa noi, non mi tarisco. Importante che funziona bene così. Sì, ma è la stessa cosa, ti dico io, non cosa devi stare, cosa devi stare qua. Tanto sempre lì devi rimanere, non è? Si crede tutta l'età a busturare con la vestighita, no? Non c'è da mascolare niente, va bene così, va bene così. È di bassissima potenza ed è più che tovo, dai, bello, bello, funzionano bene, per cui poi quando ci sentiamo va bene, basta, casi la putti, non è che deve avere potenza, a me la potenza non mi è mai interessata e mai mi interesserà, per cui va bene così, o grazie. Quando io li sento le persone, può essere Santiago 2, basta che li sento in radio e sono contento, è così che sono contento che mi sentano lo stesso, a me, se poi era tipo Santiago 5 o Santiago 2, non mi interessa niente, l'interessante è che mi sento con il radio. Ah, è a voglia, cioè, no, è bella chiara anche la tua, bella pulita, senza interferenze, è bella, è pulitissima. Poco fa Luca era. Sì, c'era Luca e anche Natalino c'era, ma si sono assentati a quanto sembra. Adesso chiamo Luca, vediamo forse c'è. Luca, ci sei, si è rientrato? Sarà impegnato sempre lì, Fegli, Montelli, Costruelli. Sarà minimo che sa se Fegli. No, perché lì era un po' rauco, lo sentivo, era la voce sua. No, stava sistemando una radio, stava aggiustando, per cui adesso non lo so se ha finito, ma penso che se non è rientrato può darsi che stia ancora continuando. Stava aggiustando la radio, pulendo, tarando, tutte queste cose qua, dai. Insomma, vabbè, te lo sai, lui si diventa a fare questi lavoretti sempre, perché la passione è morbosa, la passione quando stai elettronica è morbosa, grazie. Già lo so, vabbè, speriamo che voi cominciate a fare i pedini a Roma, come vostro caffè diretto con la macchinetta. Cazzo, la cazzo viene in casa, rade in casa. Cazzo, di più tempo lo si comprende più, boh. Vabbè, comunque è così, io. Il problema è, se abitando per dire non so, al centro, in città, dico al centro, può essere anche un pochino in periferia, ma no, in periferia lontana, come ad esempio se muovevo, fai uscire, ma forse usa la macchina. Invece se ti trovi in città, se non c'è bisogno di macchina, niente, vai, ti fai quattro passi, vai, ti fai un giretto al mercato, vedi magari dei pesci e te li compri, vedi della frutta e te la compri, e trovi un bar vicino lì di passaggio e ti prendi un caffè, è diverso, non è come stare in città, io lo so, premesso che ci sto bene qua, io non è che mi trovo male, no, sia ben chiaro, però sono sempre lì così ai chilometri per arrivare a Sassari e devo prendere per forza la macchina per arrivarci, ecco qua il discorso, grazie. Ma poi quando c'è il tempo un freddo, a me non mi piace nemmeno uscire, specialmente come era ieri, quella giornata brutta, tutta cuffa, tutto umido, no, quando vado di così preferisco starmene a casa. Vedi, oggi se voglio uscire, ma non avevo gana, non è sempre in giugana. Però se migliora le giornate già esco a farmi qualche giretto. Solo che il fatto è anche questo, molte volte che sono uscito ogni anno, non per un cane in carriera, non coccia nessuno, è ogni anno. A girabbio di così non mi piace a me. Rosogo, perché anche tu sei né più né meno o quasi nella mia stessa condizione, anche tu sei in periferia, per cui ti ripeto, se in Italia invece non so, proprio in zona Monte Rosello, o che so io, in zona Mercato, o in zona Corso Vittorio Emanuele, esci e sempre è più facile incontrare persone che conosci, ti fermi, fai due chiacchiere e così via, ma abitando lontano, magari conosci sì le persone della zona, ma anche quelle magari vanno nel stesso ragionamento, che siamo venuti lui, o se ne escono, se non vanno anche loro in città, oppure rimangono rintanati dentro casa, la stessa maniera, non è che... Ma adesso che io qua ci sto benissimo, anzi devo dire che non cambierei mai, se no mi sarei anche trasferito nell'appartamento di Sassari, mi sarei trasferito per dire no, assolutamente no, avrei preferito magari affittare questa e andarmene a Sassari, invece ho preferito fare il contrario, agli affittati qui di Sassari e mi rimango in Roma, perché qua quando arrivo con la macchina trovo parcheggio, trovo tutto, i Sassari non accetto un cane, nemmeno, cioè un angolo, non è manco per pulire un cane, non solo per pulire la macchina. Beh, ma tu lasciate i libri, no, state nelle punti che è meglio. Oh, yeah. No, Sassari, proprio a me abitare in Sassari città non mi sarebbe piaciuto. In periferia come sono già è bello, solo non c'è più un cane in giro, e no che è diventato un deserto, come te l'ha diventato l'orati dolce, ma va pure no che è diventato così. Bisogna vedere un cane in carriera, oh facendi, luzzami, E appunto te lo vedete, perché? Perché praticamente quando uno è fuori dal centro, è come ti andai in paese, non avete seconda, tu andi in un paese che si sia in Sardegna non per manco un'anima. Se non sei al centro in una città, non c'è mai nessuno, c'è così qualche persona di passaggio, ma niente di più. Però esattamente è così, cosa vuoi fare? Tutto nella vita non si può avere. No? O ci vuole di una cosa o ci vuole di un'altra, ci sono. C'è il pro e il contro sia per una cosa che per l'altra, per cui va bene così. Beh, avevamo assistito due gicari, ci sentiamo più tardi se sei qui, là. Se no stasera lo accendo, o magari verso le 5:30, là. Ok, buon proseguimento di giornata, ciao agli ascoltoni, lo lascio acceso in ascolto, tanto vi faccio queste cosette. A dopo. Ok, ciao, grazie per la chiacchierativa, ci sentiamo, ciao. Ehi, non lo so se c'è durante la giornata, comunque stasera vedremo cosa fare. Ancora la giornata è lunga. Ciao, grazie, buon pranzo. Saluti in casa. Ciao Luca, se c'è l'ascolto, chiudo. Ciao. Natalie. Oi. A me, ho finito adesso di memorizzare anche i canali, KK. Ho capito. Finito, dai. Sì, stavo memorizzando i canali. Anche. Sì, finito, montato tutto. Ecco, si sente la ventola dell'alimentatore. E se la portante muta? Aspetta là vicino. Sì, signore. È un alimentatore che è un 20 ampere che ho qua e c'è la ventola che quando parte quando premi la portante, capito? I baccadini lontani non si sentono. Infatti vabbè, questo è un microfono normale. Così che mi dici che così non si sente, vero? Se lo tieni lontano non si sente, no. Si mira vicino e lui di cui si sente. Perfetto. Ora. Aspettiamo un po' che si accenda la ventola. KK. Ma non bisogna andare a duce. No, ho avuto un impegno, sono tornato poco fa. A zonzo. Magari. Manca di fussia, così è. Io ho avuto un imprevisto, capito? All'improvviso. E sono 12. Roger. Chi è la gara? Benaventura, sì, Sergio. No, sto aspettando se c'è quella della radio, io vabbè, è fredda, l'ho accesa da poco. Poi stavo facendo, memorizzando i canali e tutto, sicché non lo stavo usando neanche in trasmissione. Ho capito. Già ho capito che era quella della radio, stavi aspettando. Lo sto facendo, infatti sono a 20 watt di portante. 70 modulati. Vabbè. Basta, di più non lo tiro. Che va a reggere. Ora. Sa che mi sposto su un altro canale, così non disturbo qua, mi metto in trazione, dai. Cappa, Natalie, dai, mi sposto sul 40, mi sposto. Tanto io mi subito devo mangiare, dai. Ci sentiamo alle prossime nel mondo. Ciao Luciano. Ciao Natalie, buon pranzo e buon tutto. Ciao. Avanti. Yeah. Gianni, sono, aspetta un attimino, devo fare una prova così mi dici se è saturo. Oh, dimmi. Stavo controllando il radio, Robert si è satura, che stavo controllando il volco sul PVR. Già, va bene. Va bene così, ok. Liscio, bella la radio pimpante. Yes. E si conferma. Adesso provo a alzare appena. Guarda così. No, è saturo. Quindi così non devo regolare, dai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lascialo così perché come alzi poco a poco va in saturazione. Anche così, guarda, in saturazione. No, la garussi. Ecco, va bene così allora. Se no, era saturo a morte proprio. E ok, va bene così. Forse quando vuoi va. E vuol dire che vivo qui sull'ingresso. Se devi dare di più, anda a saturare. Anda bene, Natale. Devo andare a fare la spesa, ma credimi, non ho nessuna furia. E io sono uscito stamattina perché avevo un impegno e adesso sto mangiando. E continua a mangiare, dai, che avevo fatto un po' di spesa lì. E cosa stavo dicendo? Un disastro stamattina, sentito questo rumore. Se adesso stesso. Cazzo, mi è caduto il coso dello scolapiatti, hai visto che ci sono quelle stecche in plastica che tengono lo scolapiatti, si è spaccato, mi sono fatto tutti i biati, i bicchieri, tutti i fasciati. Era un mezz'ora con gli anni in roba, e vedi sarà ancora qua da che basso, perché quelle cose vanno, si infilano tutte le parti, e vabbè, dai, pazienza. Io lo so, saltano da tutte le parti quelle cose lì. Vabbè, dai, ci sentiamo stasera al limite. Grazie, Natale, per il controllo.